Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Telefonia, 'ndrangheta e riciclaggio, tutto in un'unica inchiesta che ha travolto società e uomini simbolo della new economy nostrana. Nel ciclone finiscono Fastweb e Telecom Italia Sparkle. Una frode colossale da 2,2 miliardi di euro. Questa, secondo il GIP romano Aldo Morgini, la dimensione della presunta truffa che ha portato in carcere il 23 febbraio 56 persone, compreso il fondatore di Fastweb, Silvio Scaglia. Chiesto l'arresto anche per l'ormai ex senatore del PDL Nicola Di Girolamo. È una strage della legalità, dice il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso. E da qui partiamo in questa intervista con il colonnello Leandro Cuzzocrea, capo del nucleo valutario della Guardia di Finanza di Roma, quella che ha condotto la parte più finanziaria delle indagini preliminari, che dovranno ovviamente essere sottoposte a tutti i passaggi di verifica della giustizia. Partiamo dunque dalle considerazioni del procuratore Grasso e da una domanda riproposta in questi giorni. Quale doveva essere, stando all'accusa, il senso finanziario di questa colossale presunta truffa? La connotazione di questa indagine è sicuramente di grande rilievo. E il fatto che in una stessa indagine siano presenti per motivi diversi, in ruoli diversi, l'economia, il riciclaggio, la criminalità, sicuramente non passa inosservata, sicuramente non è l'unico episodio, le cronache sono piene di queste situazioni rilevanti. Un elemento chiave di questa indagine è rappresentato dai numeri, centinaia di milioni di euro, decine di misure cautelari, rilevanti sequestri di beni, probabilmente questo è l'elemento che ha connotato questa indagine più che altre. Quindi i numeri, però anche la qualità e la tipologia dei reati, mi permetterei di dire, e anche forse gli ambienti dove si è diretta questa indagine, non è soltanto una questione di numeri. Vertiamo su una situazione in cui il riciclaggio si innesta in un settore economico rilevante, quindi la frode all'erario è ingentissima, la illecita provvista che si è creata è altrettanto rilevante. Evidentemente sono reati che creano un danno immediato allo Stato, sia sotto forma di mancati versamenti, sia sotto forma di rimborsi richiesti, sia attraverso le compensazioni, quindi il danno è sicuramente molto molto rilevante. Ecco, colonnello, è già implicita nella sua risposta questa considerazione, ma perché questa inchiesta da molti osservatori e anche negli ambienti investigativi si dice che abbia rappresentato un salto di qualità? Le frodi IVA sono abbastanza diffuse e probabilmente però il settore, quello tributario, è un settore che in qualche misura si annacqua nella congerie di frodi che vengono scoperte costantemente in molteplici indagini. Io credo che il concetto di salto di qualità è legato proprio alla tipologia di reati che si sono commessi e anche alle modalità probabilmente, quindi è evidente che il numero delle società coinvolte e il numero dei passaggi nazionali e internazionali, l'utilizzo di paesi offshore, i passaggi finanziari tra molteplici paesi che hanno anche legislazioni più sfavorevoli nei confronti dei controlli e quindi nella ricostruzione di questi passaggi, rendono questa indagine particolarmente complessa e quindi anche la frode particolarmente complessa. Ci vogliono molte persone, molte società, molti paesi, molti conti, molta organizzazione per poter realizzarle. E torniamo a quello che lei diceva all'inizio, i numeri che hanno fatto un po' la differenza in questa inchiesta rispetto alle altre, che pur appunto abbastanza di frequente capita di registrare per quanto riguarda truffe di IVA o appunto le cosiddette frodi carosello. Ma veniamo un po' ai meccanismi. Una grande operazione di truffa, abbiamo detto, e di riciclaggio. Ci puoi in qualche modo sintetizzare quali sono stati i meccanismi dell'uno e dell'altro? Proviamo a schematizzare due passaggi, quello della frode che crea la provvista e poi quello del riciclaggio. Questo schema di passaggi di denaro attraverso un numero molteplice di società ha un obiettivo unico, quindi la modalità è complessa, l'obiettivo è un po' più chiaro. L'obiettivo è quello di creare un debito fiscale in capo a società che sono destinate a non pagare mai i tributi. D'altra parte, invece, si creano dei crediti nei confronti di società che ne hanno bisogno per compensarli o per chiedere dei rimborsi. Questo obiettivo si realizza attraverso una serie complessa di passaggi giuridici, passaggi di carte, infatti le società interposte vengono denominate in gergo cartiere, cioè si passano fatture, contratti, i passaggi sono normalmente sia nazionali che internazionali, intracomunitari o extracomunitari, quindi nel giro complesso si creano queste due situazioni, quelle di debito e di credito. Il debito non viene pagato e quindi si crea un danno, il credito viene chiesto al rimborso, viene compensato e quindi si crea il danno, al di là dei vantaggi commerciali. A questo punto la provvista, che è illecita, genera una necessità di essere allontanata dal momento in cui si è realizzata e quindi il riciclaggio in questo consiste, cioè nell'ostacolo della provenienza illecita del denaro, la necessità di far perdere le tracce dei proventi dei reati. Il meccanismo del riciclaggio nasce in una situazione posteriore a valle e a quel punto si creano dei passaggi attraverso molti istituti di credito, attraverso conti, attraverso flussi finanziari, attraverso paesi diversi, per ripulire, questo è il concetto del money laundering, del riciclaggio, quindi della ripulitura del denaro per fargli avere una connotazione di legalità. Una volta ripulito il denaro viene reimmesso nel circuito legale, si usano prestanome, si usano società, si usano soggetti che sono staccati, distinti da chi ha commesso i reati che hanno creato le provviste. I meccanismi sono ovviamente i più diversi, l'obiettivo appunto è quello di porre distanza tra la provvista oggetto del reato e il destinatario finale e il reimpiego nel circuito legale. Si usano appunto schermi societari, società fiduciarie, paesi offshore, società in paesi che hanno una legislazione che impedisce o ritarda la collaborazione internazionale, quindi sono tutti obiettivi delle organizzazioni che commettono questi reati. La domanda che viene, sentendo anche quello che lei raccontava, era: qual era la necessità delle due società in questione? E parliamo di appunto Fastweb e di Telecom Italia Sparkle, di ricorrere a caroselli di fatture di questo tipo per servizi anche inesistenti, quella di avere bilanci migliori? Diciamo le finalità, a seconda delle posizioni in tutto questo complesso castello di operazioni, sono le più diverse. Evidentemente per società di tipo operativo ci possono essere finalità molteplici e questo è un discorso anche molto generale. Ci possono essere obiettivi di miglioramenti dei conti, cioè si migliora l'attivo. Questo può consentire anche, per esempio, di ottenere più facilmente il credito. Si dà un'immagine migliore di una società e quindi eventualmente per l'ulteriore corso delle attività societarie, anche per le evoluzioni, per i passaggi di società, questo è un vantaggio netto. Quindi non c'è solo un obiettivo di tipo quelli finalizzati all'acquisizione di provviste di denaro, ma ci sono anche obiettivi anche di tipo societario che non sono indifferenti, certamente. Anche perché parliamo di due società che sono quotate in borsa. Quello della quotazione è un elemento aggiuntivo evidentemente, perché comunque c'è anche un mercato da tutelare. Ulteriormente l'elemento, diciamo, della sensibilità aumenta e della necessità della tutela dal vostro punto di vista. Ovviamente stiamo parlando di una inchiesta che ha avuto un primo avallo da parte della giudice delle indagini preliminari e quindi ci saranno tutti i passaggi stabiliti dalla giustizia per andare a verificare e ad esaminare quelle che sono le contestazioni che sono state mosse agli indagati. Ma questa inchiesta, intanto, colonnello, ricordiamolo un attimo, era un'inchiesta che era nata anni fa e che poi si è conclusa soltanto adesso, quindi a un bel po' di tempo dopo. Come mai? Confermando quello che lei diceva sul fatto che si tratta ovviamente di una fase di indagini preliminari, è evidente che indagini di questo genere, e questo vale veramente per tutte queste tipologie di indagini sul riciclaggio sono comunque connotate da estrema complessità, proprio perché ci sono tempi lunghi nella collaborazione internazionale giudiziaria, quindi nelle rogatorie, tempi lunghi per l'esame e la ricostruzione dei flussi finanziari. Non è quasi mai un'indagine semplice, non sono quasi mai indagini che si concludono in tempi brevissimi. Però la vostra ha avuto, diciamo, una gemmazione, se è possibile definirla così, cioè partita come un'indagine della Guardia di Finanza, poi ha toccato anche e ha coinvolto anche delle altre forze dell'ordine per aspetti che sono subentrati successivamente. Si tratta di indagini sostanzialmente parallele che sono state condotte dalla Guardia di Finanza e dall'Arma dei Carabinieri. Sicuramente sono state indagini che si sono svolte in più fasi e che hanno riguardato anche operazioni diverse che sono state ricostruite nel tempo. Quando era cominciata la vostra, quella della Guardia di Finanza? Ha preso più corpo a partire dal 2006, ha già avuto una prima fase palese nel 2007 e poi si è sviluppata nei due anni successivi ricostruendo due gruppi di operazioni che hanno riguardato appunto il traffico telefonico e inizialmente la commercializzazione di schede prepagate. Abbiamo già detto come queste frodi carosello, che in genere, ricordiamolo, sono di competenza del nucleo tributario, non del valutario, siano in realtà non così peregrine, anzi capitino abbastanza spesso, ma in questa indagine specifica quali sono state le caratteristiche di questo tipo di frodi? È sembrato di vedere un rincorrersi di tanti nomi di società, di tante cartiere, si è parlato di 24 paesi esteri, ma poi i nomi delle persone coinvolte erano un po' sempre gli stessi. Sì, diciamo, questa è una delle caratteristiche, il fatto che ha una grandissima varietà di nomi di società, poi corrispondessero nomi di persone fisiche più o meno ricorrenti, quindi sicuramente uno degli elementi che sono stati maggiormente valorizzati sotto il profilo investigativo. In realtà i reati tributari sono una delle tante fonti per poi indagare sul riciclaggio, che nel tempo da reato che inizialmente configurato come più tipicamente connesso al riutilizzo dei proventi delle associazioni criminali mafiose è diventato il reato, ma a livello internazionale, sicuramente a livello comunitario, il reato che persegue la utilizzazione dei proventi di altri reati. In questo caso, nella legislazione comunitaria, tutti i delitti non colposi che hanno una connotazione di tipo finanziario sono suscettibili di produrre riciclaggio. E proprio per questo alla legislazione di tipo repressivo penale è stata unita una legislazione di prevenzione molto molto articolata, che è uno degli snodi essenziali. Ma dove e come sono stati riciclati i soldi e poi dov'è finita la parte non ancora individuata? Anche questo nella seconda parte della trasmissione con l'intervista al colonnello Cuzzo Crea, capo del nucleo valutario della Guardia di Finanza Capitolina. Storielle. Storiacce. Erano considerati i Golden Boys della New Economy, ora sono sotto accusa per una presunta colossale frode da 2,2 miliardi di euro svelata in un'inchiesta di riciclaggio e 'Ndrangheta insieme. Anche questo, insieme ai numeri, fa parlare di salto di qualità, ha detto nella prima parte il colonnello Leandro Cuzzo Crea, capo del nucleo valutario della Guardia di Finanza, che ha lavorato su questa inchiesta della Procura di Roma insieme ai Carabinieri. E riprendiamo seguendo le strade di questo fiume di soldi, quelle trovate e quelle ancora da cercare. Il colonnello Cuzzo Crea. Abbiamo parlato del riciclaggio, si è parlato di 2 miliardi e 2. Come state cercando questi soldi? Va precisato che i volumi di denaro che passano non sono necessariamente i proventi illeciti, ovviamente per produrre una quantità illecita sono girate delle cifre estremamente più rilevanti, quindi i 2 miliardi di transazioni non vanno ricondotti al riciclaggio, ma appunto all'entità complessiva delle transazioni, una parte delle quali costituiscono la frode e una parte delle quali sono state riciclate. È possibile anche avere già un'idea, una stima, cioè a quanto potrebbe corrispondere esattamente la frode e il riciclaggio? In realtà chiedeva come sono, come vengono cercati. L'elemento essenziale è che un certo tipo di transazioni, per quanto sia rilevante la quantità di denaro che circola in contanti, ovviamente queste cifre non possono circolare in contanti, quindi l'elemento della necessità del passaggio attraverso gli intermediari finanziari è quello che consente poi la ricostruzione dei flussi. Molto probabilmente il punto di snodo più essenziale sono appunto le ricostruzioni attraverso il circuito degli intermediari finanziari a livello internazionale, e questo è ovviamente il link di maggiore rilevanza ai fini della legislazione di prevenzione, che si impernia sostanzialmente e prevalentemente proprio sugli intermediari finanziari. L'obiettivo principale della legislazione di prevenzione è proprio quella della canalizzazione e quella della tracciabilità dei flussi. È una normativa comunitaria che impone agli intermediari di conservare traccia delle transazioni sopra una certa quantità, e la conservazione per almeno 10 anni. Il fatto che un soggetto ha mandato dei soldi a un altro soggetto attraverso un intermediario finanziario viene registrato nell'archivio unico informatico della banca. Questo poi consente a distanza di tempo di poter ricostruire il flusso. Quello della registrazione è uno dei cardini essenziali della legislazione di prevenzione, insieme a quello dell'adeguata verifica del cliente, cioè l'intermediario finanziario ha l'obbligo di acquisire informazioni sul proprio cliente. Tanto più il cliente è a rischio, tanto più l'operatore deve poter assumere informazioni sul cliente. Il terzo passaggio fondante della legislazione antiriciclaggio di prevenzione è quello della segnalazione sospetta. Questi tre cardini costituiscono il passaggio che ci consente poi a distanza di tempo di ricostruire i flussi e avere degli allarmi su operazioni sospette. E questi sono anche i tre punti di riferimento, alcuni dei punti di riferimento per una operazione di prevenzione antiriciclaggio. Ma come è stato riciclato tutti questi soldi? La giustificazione formale ovviamente è fatta di contratti, fatture, documenti che giustificano i passaggi finanziari, quindi il lavoro investigativo è quello della ricostruzione delle transazioni commerciali e delle transazioni finanziarie e della ricostruzione dei passaggi che in questo caso avvengono un po' in circolarità, e quindi è proprio uno degli elementi fondanti, è proprio questo giro continuo di flussi e ovviamente la possibilità di seguire nel tempo e seguire anche tra i vari operatori finanziari e i vari stati questi flussi è quello che è la connotazione più significativa. Ma è esatto dire che state ancora cercando parte di questi soldi? Sicuramente le investigazioni sono ancora in corso. Parte ne sono rientrati, cioè abbiamo visto che ci sono stati anche dei sequestri. Esattamente. Però ecco, le cifre di partenza di tutta quanta l'inchiesta fanno presupporre che lo si stia ancora cercando. Beh, sicuramente l'indagine non è conclusa. Perché si è chiamata Punchboard Broker questa indagine? Una sintesi dei due rami dell'inchiesta, l'operazione Fancard è una delle operazioni su cui si è in qualche modo incentrata l'investigazione, Broker è una delle società che sono state coinvolte nell'indagine. A proposito di società, ci può spiegare per quale ragione, con tutte le premesse che sono state fatte, al di là diciamo di tutte quelle che saranno le decisioni, per quale ragione è stato chiesto il commissariamento delle due società? E per il collegamento che c'è con una legislazione specifica che è quella della responsabilità amministrativa degli enti, la legge 231 del 2001, che prevede tra le misure interdittive questa. Quella del commissariamento per il coinvolgimento dei vertici nell'inchiesta. Certamente, in questo caso è stata introdotta questa figura della responsabilità amministrativa dell'ente per i reati che sono commessi anche nell'interesse dell'ente. E questa è anche una forma di tutela nei confronti dei risparmiatori? Sicuramente è una forma di completamento della legislazione che è stata incentrata storicamente sulla responsabilità personale dei soggetti, e questa è una legislazione di integrazione e di completamento. Glielo chiedo perché, al di là della vicenda specifica, si è discusso molto in questi giorni, anche prendendo un po' spunto da quest'indagine, ma per un discorso più ampio, sulla tutela appunto degli azionisti, dei risparmiatori e di quanto in qualche modo, diciamo, vengano coinvolte anche in queste indagini che toccano le parti apicali delle società. Credo che complessivamente tutta la normativa abbraccia tutte le esigenze di tutela, ovviamente le esigenze di protezione dello Stato, ma anche la tutela degli interessi sociali e delle aziende. In base al vostro osservatorio, il reato di riciclaggio, che è quello con cui vi misurate e vi confrontate più spesso, che tipo di segnali avete? Il fenomeno è sicuramente estremamente complesso e non è un fenomeno italiano, è un fenomeno internazionale, varca veramente tutti i confini, tanto che sono difficili proprio anche le stime. La comunità internazionale si spende tantissimo in centinaia di paesi per contrastare un fenomeno che è gravemente lesivo degli equilibri complessivi dell'economia, perché evidentemente il riciclaggio crea situazioni di vantaggio di uni rispetto agli altri, quindi grande problema, dimensioni notevolissime a livello internazionale, altrettanto però è altrettanto alta l'attenzione e anche la evoluzione normativa, i sistemi di contrasto, la collaborazione internazionale, quindi sicuramente è un fenomeno tanto grave quanto all'attenzione. Dove finiscono più spesso questi soldi considerati frutto di riciclaggio? Non farei classifiche, perché in realtà dipende un po' dalla fantasia e dall'organizzazione più o meno complessa di chi pone in essere queste operazioni. Sicuramente l'elemento più significativo è quello della ricerca della disomogeneità normativa, quindi l'organizzazione criminale, quale che essa sia e in quale settore operi, va a cercare i luoghi dove, rispetto al tipo di frode che sta commettendo, c'è la situazione migliore, una volta di tipo societario, una volta di tipo bancario, una volta di tipo fiscale, e quindi è una ricerca attenta, un monitoraggio continuo delle situazioni che li mettono nella condizione più favorevole rispetto al reato che stanno commettendo. L'ha detto lei stesso poco fa quando diceva che all'inizio il reato di riciclaggio era qualcosa che veniva considerato associato quasi esclusivamente alla malavita organizzata, quindi alla ripulitura dei soldi della malavita organizzata. Ma quanto spesso a voi capita di occuparvi in indagini di riciclaggio anche di altro tipo, di dover incrociare poi attività che hanno odore, fumus quantomeno, di malavita? È evidente che la criminalità organizzata ha grandi disponibilità, ha grandissimi proventi e quindi è evidentemente anche molto facile che sia in quel settore che si rivolgono le maggiori attenzioni. Potete riascoltare questa come tutte le altre interviste delle Storiacce nell'archivio di radio24.it. Ciao, a sabato!